Cosa c'è? Cioè, se può buccare il luminare, il fatto di bruciare tutto nelle mani. No, la c'è una tradizione a palla. Dobbiamo preparare una miscela di scotto d'arancio, di anice, di occhio. Stai dicendo? Che davanti non ci sta per mettere dietro. Ehi, dietro, ma l'unico spazio dietro. E l'unico spazio che c'è dietro però è dove c'è la targhetta. C'è quel buco che si vede. Esattamente, c'è un buco e c'è la targhetta della matricola. Scappa di lì, ma volevo a bullone però, che avvisi. E logicamente, già tu dico li conosci, chi ti dà a colla o a sparo, fa un buchetto lì, della targhetta della sezione dall'altra parte. Oh, ci sono primi modelli degli anni 70, col chiodo di fici. Allora, cocro, ma sono 10 watt, sono più pulito. No? Ah, basta, pieno di watt. E tu pensi che ne va 25. E si trattava, quando arrivava, oltre 25 watt sparava lui. Beh, potente di anni anche nell'aria. Cazzo di è. Infatti, a tuo proposito, si chiama una direzionata. Four whisky, andate. Mi la differenza, si vede nel manco, lo smette. Prova. Sprang, sono quattro volte. Oh ragazzo, arrivano le 10 qua. Senza. Da 4:10, cioè, cambia niente. Cambia solo che c'è meno mondo dentro nell'aria. Ma lo deve partire a non toccarli assolutamente. Ma, ti ripeto, io lo prendo e strappo il potenziometro e ci metto una resistenza a pista, così non si può toccare per niente. Dai, la riduzione, ma cosa attacca al cazzo? Senta, sì, è inutile che adattatura, eccetera, eccetera, poi si può mettere a giocata con la 25 watt sono molti, minchia. C'è pericolo di fusione, di bruciature istantanee di finale, sulle PCT della base, ho detto 10 watt in AM e 21 in SSB, non 25 in AM e 25 in SSB. Vabbè, mi pare ovvio. Tu gli rotoli proprio il trimmer, così lui non può infilarci, perché lui è al vizio del cacciavite. Gli metto le canaliste sensibili al trimmer, lui invece le va a 25, male che vada a 10. Eh no, che se lui aumenta, cazzo, aumentano anche le spurie. Tu gli devi rendere impossibile aumentare il VAT. Solo tu li puoi aumentare, lui no. E allora io lo omologhiamo proprio, eh. Sì, massimo 5 watt, ma lasciagliela a 4, perché già arriva forte qua. Poi, se vuole arrivare più forte, già c'era la parecchietta ad attaccarci. Infatti, si vuole dire, ma sono fatti suoi. Tu glielo avverti che non può, perché se lui se lo fa, poi non è colpa, è colpa sua se lo fa. Certo che è colpa sua, ognuno è responsabile di quello che fa, o dà la colpa agli altri, vuol dire che gli altri hanno apparati che non servono, quando è ben chiaro che è il suo apparato che sta funzionando fuori dalle specifiche, ampiamente fuori dalle specifiche. Ehi, infatti, cosa ci credi che un 5 watt non lo intendi in continenti, quando va a vedere questi camionari, lo intendi in un matteggio quando vai a propagare. Poi con quel microfono che c'ha non c'è problema, è quello che lo sento. Ehi, infatti, lui ci crede che non lo sentono quando esce il basso di vattine. credi che da 5 a 10 cambi qualcosa, ma la cazzo di gamba. Da 5 a 1000 può cambiare, 5 a 100. Allora sì che si vede qualche punto essere che cambia, per esempio da 1 watt a 100 watt, allora qualche punto essere si vede, ma da 5 a 10, sì. Non si vede proprio una mazza, è una cosa invisibile che certo, mette, non viene altro di spurie. Ma poi cazzo, se gli arrivi dopo il 9 per aumentare il punto S ci vuole cazzo il doppio della potenza, quindi 9 volte né di resi, né di vinti e né di vento la aumenta. Ah, appunto. Cazzo, qua già arriva 9,10. Cazzo, non so qui. Io volevo provare come si dice. Centrato, l'ho fatto veloce, l'ultimo metto fermo. Ma poi che fate in questi binari? Sì, aiuto. Quindi col processore era troppo forte perché siamo troppo vicini così. Sì, effetto scoprittivo faceva la propria tabla. Non si abla. Lontano mi dicono che è bellissima la radio. Lontano, anche qua. Solo tu mi hai detto che era troppo scoppiettante, tu. E fa tre, lontano. Ritrova che ti attino con i clienti, adesso sei era troppo forte. E vabbè, mica sono basso. Infatti sono basso, non li ho toccati qua. Aiuto. Ah, ho sentito telefonino, fittina. Anche non ho capito che adesso mi ha fatto dare il controllo di radio, ti chiedo come sto uscendo di radio, bene, male, lui. Sì, sì, bene, male, ma come si fa? Con il dittofono. E a me. Spero che magari controlli il savano le cuffie, non con quell'aborto di fuso. Perché è piccolo. Sì, è molto più piccolo dell'originale, comunque male. La membrana è ciudale, allora mi soco. Ma a questo punto di un'altra parte non ci metti il dito sopra e gli buchi la membrana. Ti vedete come fossero i miei tipo telefono di quelli antichi. Che va che era? Una scena, così da grande. Perché mi si spende tanti soldi in tanti barattini di batterie, cioè se ne prende uno usato buono e fatto. Perché quelli ce li avrà già. Non che il presidente non sia buono, però stare lì a metterci tutto quanto gli optional che non gli competono, quindi stai guardando un bucchero all'altro. Perché adesso il cazzo di video funziona la figlia? Scusate che lì c'è la cartucciera lì dentro. Dubito anche che lo copra intanto. Che chiude il cover. Però la cartucciera, questa cavitini, quando apre il cover, la cartucciera con i cacciavitini è pronta. E chi ce l'ha vero? Porti fa la messicana, ti dirà a tipo di quelle di pelle tipo messicane, in alto. Perché avete tutti i tipi, forbici, martini, trame. Veramente ci aveva un tavolino con un panno verde lì e c'erano tutti i cacciaviti assentati, forbici, pinte. Sul tavolo, tutti aggiunti. Ehi, un tavolo con un panno verde c'era sopra. E sopra il panno verde c'era un sacco di roba in casa. Pronto all'uso sul tavolo. E c'era il merengita con la mascherina lì, la cuffia, pronta a farlo di ma sta bene, vai, la bomba dell'ossigeno per l'apparato. E tutto. Che gli piace giocare al dottore ogni tanto. E gli ha dato di sia scintilla. Allora, c'è l'infermiera, che gli fa sei figli. Ma che disincanto si fermerà, ma come dovrò vedere le altre intervise in fronte. Italiano, il bubilino, baracchino. Non lo sai come sono le donne. Sì, rispetto ci vuole, eccetera. Lui non può vedere il mattino, il baracchino, ma magari lui non può vedere internet, che c'entra. Chi sta passando a migliorato di internet. Eia. Ehi, il giorno che ci fanno gli unghi, già lo sai come sono le donne, lo grazie a forte. Tipo Pantene, ragazzi. Il baracchino per la collezione di Franco Bull. Cazzo. Ti immagini se io vado il fascicciano con le unghie. Diglielo a Anna Regina che siamo grandi fornitori di frutte, di gatti 9, 10, 12, 24, 48 cose. In puro RG213 e con la numero 10 da cosa da festa proviamo da 10 piccolino e vogliamo i due li mettiamo vogliamo guardate in fondo ci sono i PL belli grossi con tanto di barilotto e amo da 2 da tonno Senti come arriva, prima della gara giallo, da poi viene fatta la bici. Prima è una tua caracuglia, da poi è la dirottaglia. Ah no, è proprio roba da fare, sì, fa tentare. Bisogna avere un brevetto, un bel spezzone di rigide del 113, con un attimo connettore e barilotto pure, appiccicato, per fare più peso. E saltato in cima a quattro rami da due, di diverse a Bercolacque, sì, tipo ancoretta, capito, se non sbagli. Esattamente, hai capito il progetto, tipo ancora essa. Quindi va a pista a capatuta. Io sono una barriera di guiso qua. Sul perfetto. A provamento della vostra con la velacerazione cutanea. Nonché esplorazioni e conclusioni varie. Dovute al barilotto che pesa 500 grammi. E come subiamo in qualche piombo mezzo chilo attaccato di quelli per alto fondale, no? Ehi, ma quello come ce lo colleghi? Nell'estetica del progetto non ce lo vedo come collegarlo. Come si può attaccare? No, quella è una frutta unica, proprio pagando di barbi a fronte. Quando gli state disturbando Sky, dice il mio gira, ta-ta-ta, è barria da china. Grave e notevole confusione e lacerazione del piano schienale. Perché conseguentemente bisogna anche saperlo usare, cioè il manuale di istruzione bisogna arredare, il manuale di istruzione, perché bisogna ramazzata e poi strappare indietro in modo che faccia un effetto gaminato con l'acqua. Rovacciamento della parte cutanea. Sì, dico, io ti puoi affacciare qualcuna cosa, la faccio andare nuda all'aria. Scoiato, eh. Io non mi dico della cosa. Alzami. No, andiamo immaginando. Sì, sì, sì, ancora, ancora. Allora, là che ci do con il gatto 9 cose. Il gatto 9 cose invece è l'EC58 e... È come terminare siamo i BNC, sono i G, però siccome sono 9 che fanno il loro bravo lavoro. Senza, lo riporterà sicuramente confusioni e esplorazioni varie. Qui c'è fatto 9 cose da fare a Turio, quello pesante, fatto con quei cosi, gli attacchi N, con i turi N, che si dà nel 2. Con il 3N ho fatto di flagia ammizzata. Quando arrivo a battere il soccorso del soggetto pluri confuso e pluri fratturato. Colpito ripetutamente da oggetto non identificato. È stato più difficile da identificare, è più difficile da identificare una persona del genere. Tra maledetti sadici radiotecnici. Ah, ne ho una sfida qua, mi direi di 213 spezzoni. E porta un'altra allegria, perché quando prendo un mazzetto a 4-5, no, li fai gondolare, sono le campanelle. E beh, con i PL intestati, sì. Ti guardi, non puoi dare l'idea prima, non puoi andare ad arrivare a faccia e ti guardo tutte le cose. Cazzo, adesso me lo faccio, cazzo, ne ho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e ne ho 2 di RG58. Immagino che abbiamo un po' di 17 anni, vedi rompi. meglio, un giorno lo facciamo, bisogna trovare la il tester, la persona che si presta per la prova. A Favilli mettiamo. Direttamente a lui. Ma sì. Sei. Così almeno lo facciamo vedere forte. Io dico, chi da lui tira, avremo bisogno di microfono amplificato. Una impiegata pare. E poi apriamo il vacone, filmiamo a poca sua il vacone, a 100 canale 45, canale 45. E televisa Pizza Sicilia. E lo sento tutto spugnito dalla Costa Ionica. Si deve entrare in quest'antenna la bocca, che vedo un attalino e arrivano da dentro. E c'hanno un gruzzolo di pezzi di RG 58 un po' strano. Ah no, ne ho altri due pezzi qua che ce ne erano lungo lungo. Due lunghi lunghi ce ne sono che arrivano da qui al comodino. E c'è anche il barilotto io. Quello magari andrebbe tipo di quelli frutti che usano i gauchos da lontano, la frustata da lontano, la diretta di ricchi e nato da lontano, da lontano. Sì, tanto gli ami da pesca ne ho una scatola di quelli per Sara che io adesso... Attenta, Billy Gruber! Mia cosa, mia Lugariella. Natalina, tu sì che mi cambi il capodanno. Dai, vieni che ti sfrutto con la del 58 col barilotto. Vieni, ti spungo con l'arma soldato, vieni. E vieni lì, che c'ho un po' di spezzo nei via del 58, un po' con i bulloni. Ah, abbonato. Ehi. Andava, ma lì su... su Scimmioli, indietro. Venga, fa vedere. Mi fotte la morte, niente. Quello adesso si sta facendo la doccia. Io sto già preparando l'ispezione di RG 213, perché così deve fare la cavia lui, no? A vedere se vanno bene a fruttarlo. Cosa c'è? Cosa c'è? Chi si è affugato nella doccia? Avevo, ho già tappato la temi. Ma non si è affugato ancora, quello in chi mi sei? Ah, lì beh, ci sono guagliata come te che ti mi leva. Io ci sto bene all'acqua. Oh, Ariano. Ma come ti... tu non mai hai di me? E mi vanno a mi servire, non fa uno spuntino, mi serve il gaggio. Già non mi serve di lui. Beh, ormai lo sa, grazie. Ma sei nei miei piedi, ok? Vabbè, a me sta a freccia, mi serve svegliare le... Alessio domani mattina, ora è con un pugno a cabulato un mulino. Buonanotte a tutti, là, ci sentiamo domani. Non fa affare Alia, non possiamo parlare, te lo dico, ciao ciao. Ciao, già ti forniamo io e Natalino attrezzo al lupo. Ci sentiamo nel prossimo. Ciao Salvezza. Ciao Salvezza. Una bella pasta da venire a Uluda. Sì, ah no, per cose con PL. Mi va. Ah sì. Io ci ho brutti. Il 213. E accumulo varie lotte in di B. All'occorrenza. Ci attacchiamo anche gli ami. Ma anche qui i dati di cose non ci vanno bene dentro. Prima di attaccare il BL. A fare peso. E quelli d'acciaio inossidabile. Beh, allora scusa, il capo lo possiamo usare tranquillamente, ci mettiamo tutto intorno al capo per quanto rullato di cose, di dati da 10. Da 10 c'è un foto un po' piccolo. Con interno da 12, vanno bene. Sarebbero 16, 14, 16, tipo spirino, avere bisogno che roba il culo di te pure partire. No, un faggio su, da, se no il meneggino non ce la fa manca alzarlo, non aspetta neanche così. Sì, a meno di un metro, Ehi, vabbè, ma già... Tanto mi già c'è il piele e il barilotto. Un paio di dadi prima, in acciaio inossidabile, quindi sono micidiali. Contusioni e scoriazioni varie, assicurate. Facciamo quattro dadi, là. Quattro dadi, però distanziati. Nel caso distanziate perché troppo vicini mettono di piatto e fanno ok niente, perché distanziate la viene proprio bisogna pietra. La Luca pure, la Luca va bene a farla a casa, via. Sì, la Luca si deve una bagnata di chi si lo trovi in due. No, se proprio lui non va esattamente bene. Mica sa che si è rimasto a vedere o rimasto in evento. Guarda di più. Non parli adesso Luca, non parli. Cazzo, se vedi questo accordatore cazzo qua ti viene la malinconia. Perché ci manca lo strumento, che è rivoltato verso l'altra parte con la piastra, cazzo. Sì, cazzo. Perché l'ho usato l'hai dato. No, ma a vederlo così mi qua. Cosa farà? Perché scusami, tu mi stai ricevendo un carico, di che colore è? Dorato e nero. Dorato all'estremità e nero al centro. Quello è il carico vitigio natalino. La bobina non ce n'è però dentro, capito? E c'è da qualche parte, che c'è anche. Ma come, c'è un issue, io ti faccio la fotografia e faccia, così ti rendi conto. C'è la, come cazzo si chiama, l'indutanza per... nel commutatore per le posizioni, due condensatori ci sono in uno rosso a bordo e uno azzurro. No, già sono due. Però è il commutatore. Basta, non ve l'altro. Gli faccio la fotografia, te la faccio vedere. Altra bobina non ve ne è. È un cilindro praticamente. Non se ne vedono fili di rame. Quello lungo lì è il carico, quello lungo lì è il carico. Le parti dorate sono le connessioni del carico. La nera è il carico, perché è un pezzo di carbone. Se le bobine, non so, detto che se non le filate, non ci sono, insomma, basta come fa a cordare questa bobina. Almeno un pochettino cagato di bobina ce ne deve essere, che cazzo. Ma è sotto forma di toroide, non sta bene. Non deve essere per forza proprio una volta, ma sono dei toroidi piccolissimi. E nel circuito l'ho visto un toroide. Ah, ecco che... Ma è due volte, che vuoi per forza imbobinato, ma è avvolto sul toroide, che cazzo. L'indutanza ci vuole per forza su che cacchio di filtro LG, ma c'è stato un vecchio, mi sembra un attimo che risponda al telefono. Per forza. sulla pelvice, non ci sono neanche i condensatori, variabile, siamo a posto. No, già ci sono qui. Ma però come accordatore è diverso da chissà di greco. Magari sarà T, accordatore a T. Però gli accordatori sia a T o a pi greco, pi greco è un doppio T dopo tutto, se c'è una parte induttante, cioè in parallelo o in serie, ci deve essere. Bisogna vedersi, beh, già te lo faccio vedere, già quando lo piazzo gli faccio la fotografia e ti faccio vedere come col telefonino. Che modello è? È della Vectronic UC. Allora, te lo dico subito, modello UC300 DLP, antenna tuner. UC300? DLP, è uguale a quegli accordatori della... Ma l'accordatore era quello che c'aveva Salvatore, che era quasi uguale. Adesso non me lo ricordo di che marca era, Daiwa forse. C'era stato Daiwa. E ma è quasi uguale, solo che c'aveva tutti i pomelli, tutti dritti, quello, non ce li aveva a croce come questo. Che c'è scritto poi inductor, dove ci sono le lettere, no? A, B, C, D, nel commutatore. Se non è quello un commutatore che, boh, che ti fa anche da induttanza, boh. È solo il fatto che sui commutatori ci sia scritto induttore, è lui che comanda gli induttori. Segui i fili e vedi dove fanno finire. Ti hanno messo la portante. Ok. C'ha quattro mani premesse a croce, no? È lo strumento agli incrociati a sinistra. E c'ha quattro manopole. Allora, dal commutatore va al condensatore variabile. I due condensatori vanno al carico fittizio, per questa roba qui. Come stai dicendo tu, al carico. È un casino. Però vanno anche al circuito, però in stanza non ne vengono i due circuiti. La buia, a che va è capovolto. Non è come quello che abbiamo fatto noi, no? Tu devi vedere com'è questo induttore, come lo chiamavo. Tondo, grande, una ruota tonda, Emmy. Vabbè, stanno mettendo portante. Cazzo, a quest'ora mettono portante, cazzo, qua sul canale 21, che non stiamo disturbando nessuno. Cosa vuoi che dica? Già messo, però non mi piace. aspettino, per cui sto a parlare di cose serie, perché queste sono cose serie, non sono cavolate. Fotografia c'è lo schema. Ma c'è tu qua, allora, questa bobina qua fa tutte le prese, quindi quel carico fittizio che hai visto tu è il carico fittizio, sempre che non è il carico fittizio per forza. Linea bilanciata, ci attacchi la tasca della piattina. terra. No, quello è troppo basso. Guarda così. Ok. Sul manuale c'è tutto quanto. Veramente, pannello posteriore, quartz 1 e quartz 2. Bypass, trasmitter in balance in con due banane e wire con una banana, wire da scofilo. Ma filo di cosa? Filo, al posto dell'antenna, no? Un filo unico. Ah, ma un filo è una cosa. Yes, prego io. Naturalmente si dice che è una buona presa di tenere, no? 150 watt continui da 100 SCB. Pesa lui già. Però questo induttore, questo commutatore è una ruota e ci sono, basta che non sia questa la presa che dici tu, l'induttanza direttamente. E guarda dietro con la manopola lì, cosa c'è? Induttore c'è scritto, è il commutatore, però in punta a quest'asta qua c'è una presa, una ruota grande e ci sono tanti affari di, cioè non so cosa sia, alluminio, cosa è, dove tocca la situazione qua, c'è un affare che li tocca, no? Io penso che l'industria sia quella. Ah, ma si conferma. Il filo della pulimetta non riesce a vederlo, però. Vedi solo la parte dei contatti, no? Sono tutti i contatti. Sono dentro questa ruota qua. Io penso che sia lì per l'industria. Nel commutatore, ma cosa non è possibile se no che fosse accusato. Infatti se non giri chissà non intendi nemmeno se non segni la banda soglia, beh, compreso là, ma intendi bene, per ricevere bene devi essere nella sua banda e allora ti arriva la ricezione di lusso, se no ricevi anche male. Sia trasmissione sia ricezione, se no cosa servirebbe? Infatti, per dire che non è un giocattolino tipo TM1000 o cosa, non penso, questo è un signore, il generale lì. Senti, qualcuno te l'ha degradato, se ha detto che non serviva, sono ignorante, eccetera. Nessuno si è mai permesso di potermi dire qualcosa di questa cosa, a parte che non sanno neanche, magari questi cibidotti non sanno neanche a cosa serve una cosa del genere. Non è qualcuno che lo sa, se no sono in pochi di chi lo conosce, ne va. Che man era quell'altro che aveva colto, che Salvatore ne aveva uno di questi qui, però non era Bettruni, era di un'altra marca, non mi ricordo che marca era. Induttanza 48 spire commutate tramite tramite induttore rotativo. Cioè 48 spire sono come switchate tramite quella manopola lì. Infatti è vista l'induttanza, dai, è un induttore rotativo, perché è una ruota grande e ci sono tutti questi contatti, non so cosa sia, se acciaio o filo di rame smaltato, non lo so, però è color alluminio, argentato. Suppone che sia argentato blu, che quelli di solito li argentano, è il modo migliore di passare la corrente. sono enormi, quelli variabili. Infatti a quella di un cacciavite e salvatrice è un mister, bisogna dire signore a questo qui, non è... Certo. È grande, quanto è un 4 a 40, fatto il conto. Un po' più corto, ma la larghezza è quella. Praticamente il pezzo del dissipatore gli manca. Se no sarebbe grande quanto è uno di quelli. I dio dice che ne sono solo due. Sono tutti e due, uno è nel 27. Ma sono diversi da quelli della ZG. No, i miei non sono della ZG. Sono dio di rivelatori. Io di rivelatori germanio. Questi sono 1N27 i suoi. Adesso guardo nel catalogo e vedo se c'è qualcosa di strano rispetto a quelli normali. Se io vi avevo avuto un altro, avrei usato il piccolino pure, separato, no, per avere le antenne separate. Ecco. Ah, sono più grandi. Sono 200 picofarad, insomma. Sì, sono grandi, forse perché hanno le lamelle molto distanti per non scaricare l'alta tensione. Evidentemente sì. E sono ben lunghi, sono. Sono rettangolari, non quadrati. Sono belli, cosa ti posso dire? Saranno lunghi 8 centimetri, 10. Adesso non c'ho il metro qua a portata di mano. Cazzo, roba di occhio, 8 centimetri sono lunghi. Due malucchi, E sono tutti e due uguali, sputati, sono tutti e due uguali, sono uno sotto l'altro, sopra l'altro, capito? Sono piazzati. 200 più 200. E al centro si è attaccata la bobina. No, non è al centro, è al fianco la bobina. Al centro si è attaccato il commutatore per escludere l'accordatore o per accordare. Ci sono le varie posizioni, no? Dove c'è scritto avanti lo dico. Allora, forse lo dico. Allora c'è scritto, allora, se lo commuti a sinistra escludi, e c'è scritto antenna 1, antenna 2, bypass e va a 1000 watt. E invece se lo metti a destra vai a raccordare, c'è antenna 2, antenna 1, c'è wire, 2000 watt e tuned. Sì, ma se vedi lo schema è proprio semplicissimo, è tipo attenuatore e accordatore a T. È una configurazione che viene male a importare perché devi isolare i due condensatori dalla massa, devono essere completamente isolati, non li puoi avvicinare direttamente alla carcassa. Qui ci saranno gli isolatori di ceramica per tenerli sospesi e isolati completamente. E quello sì, solo che per saperlo bisognerebbe smontarli e li vedi com'è la situazione. Ma non troveresti neanche l'induttanza così, praticamente quella ruota che ti stavo dicendo io, l'induttore, il commutatore che è tutto uno, no? Quella ruota che ti stavo dicendo con tutte le cose di quei fili che ci sono argentati, quello lì, gatto, non lo trovi, penso. No, vabbè, qua nello schema elettrico c'è rappresentato l'induttore con tutti quanti i fiorini, no? Logicamente. No, non c'è la figura, io non c'ho la figura, c'è lo schema elettrico. L'induttanza è rappresentata in forma di induttanza di avvolgimento. Poi fa la tonda, fa la quadrata, fa la immersa in ceramica, quello che vuoi, sempre induttanza rimane. Sì. Però se tu lo vuoi costruire uguale, non lo puoi costruire uguale. E questo vale un 4 a 1 che stavi dicendo tu, dovrebbe essere questo che è attaccato a questo coso, a questa presa rotta sicuramente. È un affare tondo con tanti fili ed è collegato a quelle prese dietro. Esattamente. Guarda, è attaccato ha restato balanced antenna, sono i connettori dietro nel culo, no? Lui ha attaccato lì un trasformatore. Ehi, il mare è un 4 a 1 quello lì. È stata l'uscita è 50, no? Aspetta, sto guardando l'uscita, no? No, è un Maurum, è basso, non va a finire da nessuna parte. serve lì, ma non è collegato a nessuna parte. Praticamente te lo puoi usare per un'antenna, là tu fai un'antenna e ce la colleghi lì. Esattamente, non è collegato a nessuna parte, è lì, è fatto. La rete è una 1 con 4 a 1, non so cosa avevo detto, mi sembra che era 4 a 1. Avevo detto così, di sfuggita, mi sembra che era tipo 4 a 1. Sì, ho capito, 4 a 1 mi hai detto tu. Solo dopo il trasmettitore dove lo attacchi, e quello è il discorso. Con me non ho capito. Il trasmettitore è pure quello attacchi. E questo è il discorso. Come sarebbe a dire che vuole attaccare? Sì, quel malum che c'è, poi dove va attaccato il coso dell'antenna, che va al trasmettitore. Da lì cosa, come si funziona? Guarda, è lo schema del coso. Se non c'hai, io ce l'ho lo schema del... Il manuale là di quell'apparecchio lì, e c'è scritto come? C'è scritto come si mette. C'è scritto dove cavolo la cosa lì, cercando. Aspetta. Sì. Ah, ecco un'altra. Sara. Sì, lì c'è stato un'antenna, una linea bilanciata c'è stato. Anche la bilanciata è uscita quella, non è entrata. In che senso? La, quella lì cosa ci deve attaccare lì praticamente? L'antenna bilanciata di polo o quant'altro attaccata lì dentro c'è il balloon e sarà già lui. Sì, ma il trasmettitore devi collegare al bypass allora. Non è stato accordato all'entrata del trasmettitore, sembra più accusi, logicamente. Ah, dove c'è il trasmettitore senza collegare alle altre antenne, come ti, dove c'è scritto wire, praticamente. Wire, quella è l'entrata, cioè l'uscita, anche quella per l'antenna unica a filo, quella però. Filo unico, antenna a filo unico. Ma allora aspetta, antenna a filo unico. Oh, bisognerebbe guardare la situazione. Tanto di tutto sarebbe un questo posto che ci si può trasmettere. Diretta. Bisognerebbe vedere dove, in che posizione lo devi mettere per accordare l'antenna quella lì. Perché sennò se la prendi separata io l'antenna, capito? Tu trasmettitore la attacchi sempre allo stesso posto, all'entrata trasmettitore. Poi mediante i commutatori scegli quell'antenna lì, ci sarà scritto, no? Nei commutatori come si fa per... per commutarla sulla wire o sulla sbilanciata. Sto guardando io e dico, ecco allora, trasmitter, c'è coassiale, coassiale 1, coassiale 2, wire, vedi, c'è il filo, dammi load e tuned, poi c'è diretto, dammi load e bypass. L'antenna selezione, il selezione dell'antenna, quello di usare praticamente per trovare l'antenna giusta. Sarà wire. Sì, infatti internamente infatti è collegato a wire, uno dei due poli dell'antenna bilanciata. Quindi sicuramente devi scegliere il wire, perché sono collegati insieme. Infatti, devi scegliere il wire e ti accorda l'antenna che è attaccata a quel balum. Vabbè. caso è carico. È abbastanza facile. Quello che hanno preso di giro, in quel caso. E quanto c'è a tre posizioni, due posizioni solo, due antenne solo adesso? L'antenna è coassiale, più altre due normali, quelle, l'altra è a filo e l'altra è a coso, a piattina bilanciata. Sì, infatti. Bisognerebbe guardare bene. No, intanto devi vedere in prima istruzza a che cosa da via uno. Non si può a separare, capito? Non è stato di separarle, no? Con l'attore uno. E allora bisogna che applichi l'altro. Perché io questo automatico non mi fido. Non è che non ti fidi, che sto sporco lavoro fa. Però non ti vorrei trattare a zero. Te portare uno, due, un valore accettabile, diciamo. No? Ehi, vi pone due ore a cucchia. Ehi, vabbè. Che di niente. Il secondo cantenaio non l'ha colta nemmeno. Anche lui c'ha un raggio di intervento, mi sembra che dopo i 300 ohm non può fare niente. Non è che accorda qualunque cosa, a 300 ohm si ferma. Ehi, già lo so. Se c'è un'antenna da un kilo ohm, come può essere per esempio una 5 ottavi, senza la carica c'è un kilo ohm alla base, non te l'accorda. Se mi pare io via. Però questo del carico fittizio è di lusso, perché tu se vuoi fare delle prove metti il carico fittizio e lui ti elimina le antenne praticamente. Diciamo, prima di tutto non rompe le palle agli altri, punto primo. Cioè bisogna di stare con l'antenna che deve risuonare perfettamente. Il carico fittizio intanto risuona da tutte le parti. Con l'antenna devi stare sempre in figura accogliente. Ehi, già, invece con quel carico fittizio è buono averlo lì, no? Anche, ma se no come fai a trincare lo stesso, c'è un talattino lunga, c'è il più lungo su apparecchi, anche se non si spostano di frequenza, non è che puoi impestare la frequenza con toni, pistoni a un chilo, eccetera, eccetera, e credo che ci vuole, anche per quello. Ma è sempre circa 50 ohm, non si muove a prescindere dalla frequenza. Beh, te credo. Precio. Cazzo, ma non mi ne ha dubito a chi se lo c'è andata la dottoressa. E mo, va bene, no. Ci sentiamo le prossime allora, Natalaus. Anche noi staccando la più, sinceramente. Sì. Allora ci vediamo lo comprando domani, per cui Dio. Sì, passa. Quando passi da qualche parte, con un fuscio, e ti riprendi, ti ho messi da parte. Andrà bene, Mela. Ok, ciao. Miau miau. Buonas noches.